Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono Alessandra Fiori e qui con me c'è Franco Schipani. Ciao Ale. Ciao Franco. Siamo nel 1982, perché come tutti i venerdì, anno per anno, vi raccontiamo gli 80. E allora, caro Franco, chi c'è in cima alle classifiche in questo 1982? Mi piace quando dici gli 80. Ti piacciono gli 80? Molto. Comunque, nel 1982 il disco più venduto dell'anno è... I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was hier ist drin. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind dir wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Kabine dumm, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht dumm, oh, oh. Der Kommissar Falco, morto in circostanze misteriose. In Repubblica Dominicana si dice così che abbia sofferto per un amore mancato, tale Céline. L'amore di Céline? L'amore di Céline, Alessandra. E intanto invece in Italia, Franco, nascono 60.000 bambini. Tantissimi. 60.000 padri, 60.000 mamme, oppure gemellari, non si sa. Beh, così. Franco, la fai sempre molto complicata. Dobbiamo essere specifici e precisi. L'inflazione, te lo dico allora, viaggia a due cifre, tra il 16 e il 17%. Dal 1983 scenderà sotto il 10%, ma al contrario la disoccupazione è al 9,3% e crescerà a partire dal 1983. Oggi siamo circa intorno all'11,4%, ma con quella giovanile al 39,2%. Franco, mi dicevi del bambino prodigio Falco. C'è un piccolo prodigio italiano in questo 82? Assolutamente, parla e canta in inglese, ma è italianissimo. E il suo pezzo arriva in classifica un po' ovunque nel mondo. You are a danger, Gary Lowe, meglio conosciuto come Luis Romano Perez Belmonte. Questa invece era Donatella Rettore con This Time. Infatti non ho capito la connessione tra Gary Lowe e Donatella Rettore. Perché tutti quanti in quel periodo volevano cantare in inglese, c'erano moltissimi di loro. E anzi addirittura facevano talmente tante prove in studio per cantare proprio perfettamente, perché se non avevi la pronuncia esatta non potevi avere successo nei mercati internazionali. Invece oggi è completamente differente. Anzi, se canti in inglese con un minimo di accento è più esotico. Esotico, forse, è pittoresco. È pittoresco e anche, diciamo, possibilità di vendere di più. Comunque, quello è un periodo in cui invece tutti quanti volevano fare gli americani. Gli americani, maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso, maccherone. Io me ne magno. Mete magno, Franco? Mete magno. Però non è che si sono messi tutti a cantare in inglese? Ma assolutamente no, perché guarda, comunque la disco music dava a tutti la possibilità di in qualche modo superare queste barriere linguistiche. Mentre invece, guarda, ci sono alcuni spagnoli che invece cantano in italiano. Arrivare e partire, che gusto mi dà. Sono un mago poeta con due identità. sono quel vagabondo che pace non ha. Bravi ragazzi, Miguel Bosé e Julio Iglesias, sono un vagabondo. Ma lo sa Alessandra che un giorno sono andato a trovare Julio Iglesias alla sua meravigliosa casa a Los Angeles e c'era una ragazza che stava giocando a ping pong, si vedeva soltanto la faccia perché avevano tutte di queste larghe, non è che si vedeva il corpo come era la faccia. Per carità. Molto, molto, molto, molto carina. E dissi, Julio, carina la tua amica. Lui mi guardò negli occhi e mi disse, beh, è Miss Universo. Ah, Franco, piccola, è un particolare, non te ne sei accorto perché aveva questi vestiti grandi, grandi, ampi, ampi. Ampi, ampi, ampi. Quasi, ampi, quasi ampi, mi metto ampi, una tutuna ampia, ampia. Senti, Franco, ma canta anche Miss Universo? Non credo, comunque farò ricerche. Bravo, allora, mentre tu ricerchi io ti dico che a un certo punto dell'82 tutti cantano italiano. Siamo 40 secondi oltre il tempo regolamentare quando attacca Litvarski. Palla al centro per Müller. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. E campioni del mondo, Franco, è Nando Martellini. L'11 luglio la nazionale italiana vince i mondiali di calcio, ovviamente, in Spagna, battendo la Germania 3-1. 3-1, ma capito? Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni, campioni, avete capito? Campione 3-1, insomma, esatto. Alessandra. E poi però abbiamo vinto ancora. Sì, quando abbiamo vinto? Lo so, Franco. Dimmelo. Nel 2006. Fantastico. Hai visto? Mi che sono preparato. Emozioni recenti. Allora, quello spagnolo dell'82 però è cominciato in salita per la nazionale con i calciatori e Berzò in silenzio stampa per le troppe critiche, ma poi sono finite con una grande festa in cui il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, esulta allo stadio come un ragazzino e al giornalista che poi gli chiede se non si corre il rischio di dimenticare i problemi del paese esultando e festeggiando in questo modo, lui risponde così. Ma il nostro problema, ma buon Dio, ma insomma, che ci sia una sosta. Nelle preoccupazioni, nella tristezza, nella insoddisfazione, ci sia un po' di sosta. Dopo il sei giorni di lavoro viene la domenica, no? Ebbene, chi ha lavorato i sei giorni ha il diritto alla domenica di andarsene con la famiglia a gioire sulla spiaggia, in montagna o altrove. E gli si deve dire come mai tu gioisci quando ti attende lunedì. Io penso adesso alla domenica e lunedì verrà a suo tempo. Il lunedì verrà a suo tempo, Franco. È inevitabile. È inevitabile, arriva per tutti il lunedì. Un po' come settembre. Senti, ma intanto in Italia fa notizia anche Sanremo. Tu ci hai raccontato che nell'81 il festival è tornato alla grande. Primi posti su tutte le hit, grandi ascolti, fiumi di inchiostro versato dai media. E adesso, nell'82, che succede? Beh, Claudio Cecchetto è sempre il presentatore. Sai perché? Perché porta bene lo scenario. È quello di una discoteca, questa volta si è organizzato bene con delle bellissime scenografie, si canta dal vivo ma su base registrate e sai chi vince questo festival? Eccolo, è lui. Storie di tutti i giorni, vecchi discorsi sempre da fare, storie ferme sulle panchine in attesa che un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, ma sempre in corsa, sempre a metà. Cambiano strada se li saluti, storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave. Mix 24, musica e storia. Storie di tutti i giorni. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori e qui con me come sempre c'è Franco Schipani. Ciao a tutti, ciao Ale. Ciao Franco di nuovo. Stiamo ascoltando il vincitore di Sanremo 1982, Riccardo Fogli, con Storie di tutti i giorni. Però dietro di lui, immediatamente dopo, per una manciata di voti sono arrivati, beh, ascoltateli. Felicità e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità. Fiori, e la notte nasconde forse nuovi amori, perché voglia di entrare, per chi resta fuori. Qualche volta si sbaglia e si rimane soli. Felicità, Albano e Romina, e Soli Drupi. Comunque, a parte queste canzoni leggere, ecco, quell'anno si istituisce il premio della critica. È un premio molto importante, perché hanno voluto valorizzare certe canzoni che magari non potevano avere un grosso successo commerciale. Meno popolari, però poi lo diventano se sono belle. Come in questo caso. Non finisce mica il cielo, Mia Martini. E sotto il cielo siciliano, a Palermo, il 30 aprile del 1982, la mafia uccide Pio La Torre, politico e segretario regionale del PCI. È il primo parlamentare ucciso da Cosa Nostra. Nell'agguato perde la vita anche il suo autista, Rosario Di Salvo. Quel giorno, nel ricordo della moglie di La Torre, Giuseppina Zacco. Io ero andata a fare la spesa a Piazza Vittoria. Appena entro in via Panisperna alla punta, vedo che c'era tutta la gente fuori. Man mano che mi avvicinavo, ho visto che c'erano le saracinesche abbassate e gli uomini messi fuori, tutti fuori. Giù davanti il portone c'era Agata, mia sorella, compagna di partito. Io mi sono avvicinata e ho detto: hanno ammazzato Pio. Lo capì. Mi portarono subito da Pio. Io ero accanto a Bufalini, che mi stringeva la mano, che mi fece pure male. Questo fu tutto. La testimonianza e la voce davvero commovente di Giuseppina Zacco, lo ricordiamo, la moglie di La Torre. E proprio dal sacrificio di Pio La Torre nasce la legge Rognoni-La Torre, che inserisce nel codice il reato di associazione mafiosa, uno strumento decisivo nella lotta alla mafia. La stessa sera dell'omicidio di Pio La Torre arriva a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto della città. Ma dopo soli 100 giorni, il 3 settembre dello stesso anno, la mafia colpisce ancora. In un agguato è stato assassinato il prefetto di Palermo, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Hanno perso la vita anche la giovane moglie del generale e un agente di scorta. Le indagini sono molto difficili. Nello sgomento Palermo. Il generale Dalla Chiesa viene ucciso in un agguato con la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente di scorta. Solo pochissimi giorni prima, il 12 agosto del 1982, Dalla Chiesa aveva rilasciato un'intervista a Giorgio Bocca. Un'intervista che diventa una denuncia dello stato di solitudine e di abbandono in cui vive il prefetto, un uomo destinato a morire. Sentiamola. Io a quell'occasione mi resi conto in una maniera drammatica di quanto avesse ragione lui a dire che era solo. Andò così che io mi presentai a questa sede della prefettura, che era una villa. Alla porta c'erano due poliziotti, quali arrivai, mi dissero, fecero un gesto come dire entri pure, come se non avessero bisogno di fare nessun controllo. Io salei su al primo piano, andai verso il suo ufficio, che c'era la porta aperta e non c'era nessuno. A un certo punto sento un rumore, vedo Dalla Chiesa che esce da una toilette, era solo, completamente solo, non c'era nessuno in tutta la prefettura. Poi durante l'intervista, che durò più di un'ora, non arrivò nessuna telefonata di nessuno, insomma, era veramente l'uomo destinato a morire. Un uomo destinato a morire. Ma intanto si aprono nuovi inquietanti capitoli nello scandalo della P2. Il 18 giugno il corpo di Roberto Calvi viene ritrovato a Londra sotto il ponte dei Frati Neri, mentre a settembre a Ginevra viene arrestato Licio Gelli. Degli anni durissimi, tremendi. Comunque, la musica va avanti. Va avanti anche a Sanremo con una strana coppia. Il segnale orario vi è offerto da L'impressionismo di Zan Domenechi, in mostra a Padova, Palazzo Zabarella, fino al 29 gennaio. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mix 24, musica e storia. Vado al massimo, vado con fedele. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Sono sempre Alessandra Fiori, qui come c'è sempre Franco Schipani, ciao. Ciao, siamo nel 1982 e Franco ci stava raccontando di una strana coppia sanremese. Una l'abbiamo ascoltato, cioè la prima parte della strana coppia l'abbiamo ascoltata prima una della pubblicità. Una coppia divisa dalla pubblicità. Esatto, abbiamo la seconda iniziato con è Zucchero, sì. Fornaciari, molto melodica, questo è Vasco Rossi con Vado al Massimo. Ci ha fatto caso che quando hanno cominciato a perdere i cognomi Zucchero, Fornaciari, Vasco Rossi, hanno cominciato ad avere successo? Forse era... Chiamami Alessandra. Ottimo. Ti piace? Sì, Ale. Grazie, ma ancora Franco. Più breve, così ti auguro più fortuna. Senti, grandi assenti? Grandi assenti su tutti i ricchi e poveri che comunque, mia cara Ale, si rifanno abbondantemente durante l'estate. Perfetto, ricchi e poveri, come vorrei, ma i grandi big di Sanremo? Beh, fanno un po' l'amoretti, ci vado, mi metto da parte, non ci vado, mi si nota di più. E comunque te li faccio ascoltare. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grigli e stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle. Suoni di aerei supersonici che fanno alzar la testa e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono vicino che vuol dire già aspettare, schiuma di cavalloni pazzi che si inseguono nel mare. E pantaloni bianchi da tirare fuori, che è già estate, un treno per l'America senza fermate. Avevi ragione tu, mia cara, la vita non dura mai una sera, il tempo di una follia e breve fugge via. E poi cosa rimane dentro noi? Questa celeste nostalgia. Questo saperti da... Avrai Claudio Baglioni e Celeste Nostalgia Riccardo Cocciante. Ho capito Big Franco, ma io intendevo Big. Per esempio Battisti, Mina, dove ma sono? Loro hanno ormai da anni abbandonato l'esibizione dal vivo, non si fanno più vedere, fanno ancora dischi, belle canzoni, però hanno intrapreso delle strade artistiche veramente completamente diverse dal passato. Sentite un po'. Lucio Battisti, morirò per te, Mina. Mina, che è sparita. Assolutamente. Ma intanto, fuori dai nostri confini, come sempre, succedono molte cose. Il 1 ottobre, il nuovo cancelliere tedesco è il democristiano Helmut Kohl, 52 anni, uomo chiave dell'unificazione della Germania nel 1989. E in Medio Oriente, come sempre, c'è un grandissimo fermento. In agosto il Consiglio di sicurezza dell'ONU invita Israele a cessare i bombardamenti su Beirut. Un mese dopo il presidente libanese Gemayel muore in un attentato. Poi la tragedia. I miliziani cristiani fanno strage di palestinesi nei campi di Sabra e Shatila, un'area sotto controllo degli israeliani. Le vittime sono 2.000. È un vero e proprio massacro di civili. Secondo fonti palestinesi, più di 1.000 persone sono state fucilate in massa e sepolte malamente con i bulldozer. I falangisti di Haddad hanno smentito, ma sta di fatto che Israele in serata ha dovuto proibire l'ingresso ai campi palestinesi agli uomini della falange di Haddad e sembra che anche Washington sia intervenuta per far cessare il massacro. Martedì il Parlamento libanese deve eleggere il nuovo presidente, ma intanto Israele respinge il voto unanime di condanna, hanno votato a favore anche gli Stati Uniti, del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiedeva il ritiro delle sue truppe dal Libano. Ce ne andremo quando ci sembrerà opportuno, ha detto in sostanza il ministro della difesa Sharon. E un altro orrore viene scoperto dall'altra parte del mondo, a Buenos Aires. Le fosse comuni piene dei corpi dei desaparecidos oppositori del regime militare. E il 2 aprile, proprio tra Argentina e Gran Bretagna, è guerra per il possesso delle Falkland. Margaret Thatcher vincerà su Leopoldo Galtieri. Justin Illusion, Imagination and Love is in Control, Donna Summer. Io mi chiedo, questi Gorrafondai, ma le sentivano queste canzoni che parlavano di amore, di comprensione, di illusioni, di affetto, o no? Ma tu pensi ai fiori nei cannoni? Esattamente, sono rimasto Franco, lì, agli quanto anni 60. Sei 70. Sì, sì, sono antico, lo so. Ma tu la ballavi la disco a New York? Assolutamente sì, scherzi. E dove la ballavi? Dappertutto, anche dove? A casa. Volevi sapere i locali? Peppermint Lounge. Non aprire il file. Non apro il file dei locali a New York, ok? Ma la disco soprattutto in quegli anni, lo sai dove andava? Dove? In palestra. Davvero? E come mai? Indovina Franco. Sentiamo un po'. Physical, physical. Let's get physical, Olivia Newton-John, and let's groove Earth, Wind and Fire. Hai capito perché la disco music poi è rimasta tanto sulla cresta dell'onda? Perché è arrivata nella palestra prima ancora di Jane Fonda? C'era Olivia Newton-John. Ma è ovvio. Lo sai che adesso la metto sulla mia playlist da palestra, tanto non ci vado in palestra. Hai capito perché non dovevo andare in palestra io, non me la, perché me la ballavo a casa, perché con questa a casa veramente si faceva del serio esercizio. Pensa che a quell'epoca era già nata la moda di portarsi i trainer a casa. Infatti è per questo che hai il fisico che hai, perché è da allora che ti porti il trainer a casa. Ed ecco perché sono in radio e in televisione, perché se vedessero questo fisico, ragazzi. Senti, ma c'era qualcuno che la disco la travestiva? Assolutamente sì. Beh, la travestivano alla grande. Words in papers, words in books, words on TV, words for books, words of comfort, words of peace, words to make the fighting cease, words to tell you what to do, words are working hard for you, eat your words but don't go hungry, words have always nearly hung me. Wordy Rapping Wood, Tom Tom Club, e poi Disco Project dei Pink Project, che nonostante il nome inglese è un progetto di Stefano Pulga. Ma ti rendi conto di quante ne balliamo ancora? Madonna, sono degli evergreen, perché questi qua, una volta che ti fanno sudare e ballare, ti fanno sudare e ballare per sempre. No, ma che poi il revival non passa mai. Assolutamente. Non passa, Franco. Sono d'accordo. Non passa. Il 1982 però è un anno di lutti per il cinema mondiale e due grandi attrici se ne vanno. Il 14 settembre Grace Kelly muore in un tragico incidente a Monte Carlo. L'attrice aveva fatto sognare tutti quando nel 1956 aveva sposato il principe di Monte Carlo Ranieri. Un matrimonio da favola con un finale però drammatico. Il ricordo di quel momento nelle parole del figlio Alberto di Monaco. È stata una cosa terribile e drammatica. Terribile, drammatica. E la mia famiglia l'ha vissuta sulla propria pelle, con tutto il dolore che questa esperienza ha comportato. Un'esperienza terribile. Ecco, molti dicono che sua sorella, la principessa Stefania, è rimasta segnata più di tutti da quel dramma per il fatto che l'ha vissuto in prima persona, è vero? Sì, credo che mia sorella Stefania abbia sofferto molto più di quello che si possa immaginare. Con il suo ricordo, è più viva la storia d'amore o il finale drammatico? Io penso che per la nostra famiglia quello che conta sono i ricordi, soprattutto il ricordo di una madre formidabile, un ricordo di gioia. Credo sia proprio questo ciò che resta di questa storia. Un bellissimo ricordo di nostra madre. E il 29 agosto, nel giorno del suo 67esimo compleanno, muore un'altra grande attrice. Ingrid Bergman, che da lungo tempo soffriva di un male incurabile, è morta nella sua abitazione londinese poche ore dopo aver compiuto i 67 anni. È stata per quasi 50 anni una delle attrici più prestigiose ed ammirate. Aveva debuttato giovanissima in Svezia, dove era nata, e poi era stata lanciata da Hollywood come l'erede di Greta Garbo. Il successo fu immediato e non l'avrebbe più abbandonata. Franco, ma è anche un anno di trionfi. Al Festival del Cinema di Berlino, l'Orso d'Argento va a Monicelli per questo film. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Franco, succede, lui è il Marchese del Grillo, naturalmente. È un classico, questa un classico, è davvero una un frase. Assolutamente, comunque... c'è un cantautore, scusa, sto ridendo perché mi fa sempre ridere questa frase. In Italia c'è un cantautore invece che organizza, pensa, un evento in un carcere minorile ed un ex frate cappuccino che canta le lodi del Signore con la chitarra. Speciale. O fu per gioco simpatia, per amore o nostalgia, che quella sera ti ho scritto una canzone. O la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti. tristezza amara era la mia, spinta solo da pazzia, che tende a ricordare solo ieri. E non capivo che parlavi e mi tenevi stretto al cuore come un bimbo appena... Nisi da Edoardo Bennato e Solo Grazie, Giuseppe Cionfoli, grandi successi dell'estate del 1982. Però scusami, Nisi da... Sì. Bennato? Sì. A me ricordano Woman No Cry. A me, guarda, Solo Grazie ricorda Julio Iglesias. E dai. Comunque, Frank, estate, quindi andiamo un po' in spiaggia. Cosa andiamoci. Cosa si leggeva in spiaggia in quell'anno? Cosa si leggeva? Si leggeva forse Marquez, che nell'82 si aggiudica il Nobel per la letteratura. E al cinema, invece, arrivano due grandissimi film che sono diventati storici, in modo particolare per due frasi. Telefono. Telefono? Ha detto telefono! Ha detto telefono! Non ti sei lavato le orecchie stamattina! Ha detto telefono! E ti casa telefono! E ti telefono casa! E ti telefono casa! E ti telefono casa! Vuole chiamare qualche persona! Io ne ho... viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Franco, naturalmente sono E.T. di Steven Spielberg e Blade Runner di Ridley Scott. E a questo punto, caro Franky, un po' di rock and roll ci starebbe molto bene. Beh, ma dopo Blade Runner sicuramente, cara Alessandra. Allora, che rock sia... Moment, Asia and Eye of the Tiger Survivor. Chiappini dice gli occhi tuoi. Mm, gli occhi di Franco. Buon gustaio. Lo sai che una volta con mio figlio a New York, un figlio newyorkese che ora tu ha 31 hai, tu anni. Tu sì che sei tu. A 31 anni, però mi ricordo che fece la prima festa a casa, tutti i ragazzi sui 13-14 anni, erano tanti di loro, cioè un numero impressionante. Ecco, il giorno dopo mi sono accorto che nella mia collezione delle LP, tu lo sai, LP e CD, io li metto in ordine alfabetico perché sono uno che... mi sono spariti una quindicina di cose. Ho detto, maledetti, vado, e mancavano Jimi Hendrix, mancavano i Doors, mancavano Janis Joplin. Detto, ma ragazzi, ma loro sono dei ragazzi sani, hanno rubato le cose giuste, moltiplicatevi, che la cultura sia con voi. Comunque, questi ragazzi, quando invece dovevano stare un po' attento a tette con la ragazza, non è che usavano i Led Zeppelin, ma usavano questo. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to Ebony and Ivory live together in perfect harmony. Oh Lord, why don't we? to say I'm sorry, Chicago, e poi Ebony and Ivory, Paul McCartney e Stevie Wonder. E c'è Chiappini che è andato a casa tua. Guarda. Ha detto che lui ti ruba Nilla Pizzi. Guarda, ne ho tre copie originali, autografate, perché siamo della stessa età. Senti, sì, va bene. E adesso salutiamo questo 1982, indovina Franco. Con il solito brano, però sempre azzeccato, devo dire sempre azzeccato. Con una cover di quell'anno, di quell'anno, scelta come sempre dalla nostra Antonella Migliaccio, Splendida giornata di Vasco Rossi, rifatta da Giuliano Palma featuring Fabri Fibra nell'ultimo disco Grooving, uscito a luglio. E da Alessandra Fiori e da Franco Schipani, ciao a tutti, ci risentiamo nel 1983, cioè venerdì prossimo. Ciao. Cosa importa se è finita? E cosa importa se ho la gola bruciata? Ciò che conta è che sia stata come una splendida giornata. Senza tregua, una splendida giornata, sempre con il cuore in gola fino a sera non arriverà. Gira in casa lo stereo acceso, osservo il cielo fuori quanto piove, mentre parlo del più e del meno, così non penso alle mie paranoie. Guardo un po' la tele, cerco di distrarmi come tutte le persone. Vorrei stare bene, anche se è da giorni che non si vede il sole. Ma se fosse una bella giornata, lì da te sarei già sotto casa, e faremmo così tanta strada da sposarci una notte in Nevada e bere vino per una settimana in uno stupido hotel malmesso. E poi appena ritornati in Italia mi domandi adesso, ma che importa se è finita? Cosa importa se era la mia vita? Oh no, oh no. Ciò che conta è che sia stata una fantastica giornata morbida. Sony World, oh yeah.